Letture di Radio 24. Vulcano 3 è uno dei capisaldi della letteratura di fantascienza. Lo ha scritto nel 1960 Philip Dick, autore americano dai cui romanzi sono stati tratti film come Blade Runner, Atto di Forza e Minority Report. In piena guerra fredda, Dick immagina un futuro nel quale la Terra è uno stato totalitario, con capitale a Ginevra, completamente controllato dai computer. Il più potente di questi è Vulcano 3, una macchina che, almeno sulla carta, dovrebbe essere imparziale e razionale. Contro questo computer si schierano però i guaritori, fanatici religiosi che cercano di spingere operai e borghesi a stringere un'alleanza per opporsi allo strapotere delle macchine. Quando si scopre che il precedente computer, Vulcano 2, è stato fatto a pezzi, i sospetti cadono subito sui guaritori. William Barris, il giovane direttore del Nord America, è l'unico che avrebbe il potere di impedire l'espansione del conflitto, ma è lacerato dai dubbi. Si domanda, ad esempio, se sia possibile che Vulcano 3 non sappia nulla dei guaritori e chiede di poter parlare con Jason Dill, il numero uno dei direttori d'unità, per avere delle spiegazioni. Verso la fine della settimana, il direttore William Barris si vide recapitare il modulo DQ che aveva inoltrato a suo tempo. In fondo al foglio era stato scarabocchiato il seguente appunto: compilato non correttamente. Pregasi a portare modifiche richieste prima di un nuovo invio. Furioso, Barris attivò il vidsender. Mi passi il controllo d'unità a Ginevra. Il monitor di Ginevra entrò in contatto video. Desidera, signore? Barris raccolse il modulo DQ. Chi lo ha rispedito? Di chi è questa calligrafia? Il monitor effettuò un rapido controllo. Il suo modulo è stato visionato personalmente dal direttore generale Dill, signore. Barris spense lo schermo con un gesto feroce. Restò assorto per qualche istante. Non c'era dubbio. Jason Dill stava prendendo tempo. Non posso più andare avanti così, pensò Barris. Non ho mai ricevuto risposte simili da Ginevra. Cosa sta tramando Dill? Perché si rifiuta di collaborare con i suoi direttori? È più di un anno che Vulcano 3 non proferisce verbo sui guaritori. E se l'avesse fatto, invece? Magari il suo responso era stato semplicemente taciuto da Dill. In un accesso di incredulità, si trovò a considerare un'altra ipotesi, ossia che Dill evitasse di passare informazioni al computer, impedendogli di apprendere quel che accadeva. Possibile mai che Vulcano 3 non sapesse nulla dei guaritori? L'ipotesi gli sembrava del tutto inverosimile. Un'impresa del genere avrebbe comportato uno sforzo incessante e sovrumano da parte di Dill. Ogni settimana miliardi di dati venivano trasmessi a Vulcano 3. Evitare che a quel grande calcolatore giungesse qualunque minimo accenno al movimento rasentava l'impossibile. Ma anche ammettendo che Dill stia nascondendo a Vulcano 3 l'esistenza dei guaritori, a che scopo lo farebbe? Una crepa si è aperta nel cuore dell'unità, pensò con amarezza. Un solo uomo è nella condizione di interagire con il computer e pertanto quell'unico uomo può tagliarci fuori tutti, dal primo all'ultimo. Quell'unico uomo può cancellare il mondo intero agli occhi di Vulcano 3, come un alto prelato che si frapponga tra Dio e l'umanità, rifletté Barris. È sbagliato, ovviamente. Ma cosa possiamo farci? E cosa posso farci io? Per quanto io sia l'autorità suprema di questa zona, Dill resta comunque il mio supervisore. Può rimuovermi quando più gli aggrada. In teoria, rimuovere un direttore contro la sua volontà è una procedura complessa e problematica, ma è stato fatto più volte in passato. E se provassi a accusarlo di... Di cosa? Ha in mente un piano, si avvide Barris, ma non ho modo di capirne la natura. Non soltanto non dispongo della benché minima prova, non ho neppure idea di quale accusa formulare. In fondo, che abbia compilato il modulo di cui in maniera non corretta è innegabile. E se Dill intende sostenere che Vulcano 3 non si è pronunciato sui guaritori, nessuno potrà contraddirlo, perché nessuno, a parte lui, ha accesso alla macchina. Dobbiamo credergli sulla parola. Ma ne ho abbastanza di credergli sulla parola, pensò Barris. Allungò una mano e riaccese il vidscreen. Sono Barris, faccia preparare subito una navetta di prima classe. Devo partire immediatamente. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del romanzo di Philip Dick, Vulcano 3, Fanucci Editore, 208 pagine, 17 euro.